Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rassegna stampa dei settimanali italiani e non solo italiani, alla ricerca di qualcosa da leggere, qualcosa che possa suscitare la nostra curiosità e il nostro interesse. Allora, da ieri è in edicola con il Sole 24 Ore il mensile Il, che è la sigla di Intelligence in Lifestyle ed è il mensile del Sole 24 Ore dedicato appunto a numerosi approfondimenti. Questo mese, ovviamente essendoci la coincidenza con la data di ieri dell'11 settembre, coincidenza non gradevole, ci sono due anniversari, per così dire, che vengono celebrati, anzi addirittura tre. Allora, innanzitutto le Torri Gemelle, poi soprattutto il 14 settembre il crack di Lehman, che ha in qualche modo suggellato l'avvio della crisi finanziaria, cominciata prima ma esplosa proprio con il momento in cui vedemmo uscire tutti quanti con gli scatoloni in mano questi impiegati, queste persone licenziate appunto da Lehman e dal crack della banca. E poi c'è invece, molto più in piccolo ma non meno importante, verrebbe da dire, l'anniversario proprio di Il, perché questo mensile del Sole 24 Ore, che trovate appunto tutti i mesi in vendita insieme al quotidiano, compie proprio con questo numero la dodicesima uscita, quindi il suo anniversario. Allora, un numero in qualche modo che si presta anche a qualche considerazione sui lettori e sul prodotto. Ma andiamo un po' con ordine. Allora, innanzitutto, un anno dalla crisi, abbiamo detto. La crisi è ricordata dalla copertina di Il, il titolo Settembre Zero, cronache da New York, un anno dopo il crack finanziario. Una serie di articoli raccontano il crack e soprattutto che cosa è successo poi dopo il crack. Vi segnalo ad esempio questo contributo che è affidato a Paolo Madron, New York anno zero, anzi no, a un anno dal crack che cosa è cambiato? Passata la tempesta, le banche d'affari tornano a macinare utili, piovono bonus, ma la voglia di gettarsi tutto alle spalle nasconde molte ansie, una in particolare inquieta più di altre. E nell'articolo Madron infatti spiega, innanzitutto da questa descrizione iniziale di questo salone del ristorante Four Seasons su Park Avenue, l'ora del power lunch, il pranzo dei potenti, ma lui dice sembra invece di stare al refettorio di un convento. Sarà per i pochi tavoli occupati, per l'enormità dello spazio che esalta i vuoti, ma l'atmosfera è penitenziale, ovvero troppo pochi commensali per la struttura, e anche il clima ovviamente non è dei più allegri. Ma prosegue Madron, in realtà se si getta un occhio alla borsa e soprattutto a come l'economia di carta è tornata a macinare soldi, uno potrebbe anche credere che non è successo nulla. Infatti uno dei banchieri da lui sentiti dice: stia tranquillo, tornerà tutto come ai bei tempi. Però non dovrebbe essere tutto così semplice. Perché? Perché resta un cruccio, prosegue sempre Madron, qualcosa che proietta ancora un'ombra sulla ripartenza. Gli americani non consumano, o consumano troppo poco per rifare della loro economia la gioiosa macchina da guerra che fu. Il fenomeno è allarmante perché coinvolge anche i campioni del lusso, che sono per definizione anticiclici, cioè non sentono i momenti di flessione che invece vengono avvertiti da altri settori dell'economia. Basta fare un giro sulla Quinta Strada o sulla Madison per vedere che anche loro vendono sotto costo, fino al 70%, come recitano i cartelli, per smaltire scorte che non si smaltiscono mai. Poi c'è la disoccupazione, che non accenna a diminuire. In America viaggia costantemente sopra il 10%, con punte del 15% come nel Michigan. Tra l'ottimismo generale si insinua così la voce degli scettici: se non c'è lavoro e la gente non va nei negozi, è impossibile venirne fuori. Questo naturalmente è uno dei passaggi. In realtà l'articolo di Madron, molto più lungo, contiene anche passaggi invece più positivi. Tutti i segnali di ottimismo, i cosiddetti germogli di cui si è cominciato a parlare, Anche nel nostro paese e nei vari stati colpiti dalla crisi finanziaria ed economica, motivi che insomma ci lasciano più ottimisti, più speranzosi nelle capacità di ripresa. Ma appunto da questo resoconto di Madron si vede come un anno dopo la crisi i segni ci siano ancora tutti negli Stati Uniti, siano molto visibili e ci sia anche il motivo di continuare a essere, se non preoccupati, almeno di vigilare attentamente su quello che sta succedendo. Questo è uno dei contributi che trovate su il questa settimana, questo mese. Restiamo su il perché, guardando qua e là tra le pagine, vi segnalo una parte che si trova nella sezione Global Report dedicata all'Europa. Te lo do io il bel tempo. Di cosa si tratta? Daniele Lorenzetti ha fatto un giro a Londra, dove c'è questo centro meteorologico inglese che è uno considerato il più affidabile del mondo. Voi sapete che anche quest'estate, come sempre succede, però devo dire, si è discusso sulla validità delle previsioni meteorologiche, secondo alcuni non sufficientemente precise. In qualche caso è capitato che magari per qualche ricorrenza particolare sia stato previsto buon tempo e questo non è successo, oppure il contrario. Allora Lorenzetti racconta di questo centro che comincia la sua attività nell'agosto del 79, quando nacque il modello di previsione meteo di Reading. Allora di global warming non parlava nessuno. 30 anni dopo, a scenari climatici capovolti, le previsioni di questo centro studi sulle colline che stanno a mezz'ora da Londra vengono considerate le più attendibili al mondo, con un computer che è in grado di sfornare mappe a 3 giorni accurate al 97%. È il Centro Europeo per Previsioni del Tempo a Medio Termine, è un'organizzazione che viene supportata da 31 stati, è una sorta di Unione Europea del Meteo. Il suo cuore sta nei sotterranei, c'è un archivio climatico da 10 milioni di gigabyte che attira ricercatori da tutto il pianeta. Qui i segreti, se ci sono, vengono ben custoditi, perché la sfida con i cugini americani di GFS, che è una sigla che sta per Global Forecast System, cioè Sistema di Previsioni Mondiale, è serrata. Senza modelli affidabili su scala globale, nessun esperto nazionale potrebbe sbilanciarsi su che tempo farà domani. Ora la competizione, scrive sempre Lorenzetti su il di questo mese, è spostata a lungo termine. Quando il clima si fa estremo, nota il direttore del centro di Londra, Dominique Marbouty, ogni giorno in più che abbiamo può salvare vite e ridurre notevolmente i danni. Ogni giorno poi ci sono dei box a fianco a questo articolo che ci informano di alcune particolarità di questo centro di Reading. Ogni giorno 24 ore su 24 il computer nel seminterrato del centro di Reading rumina 300 milioni di dati raccolti da stazioni terrestri e da satellite. I suoi calcoli sono alla base del modello di previsione inglese. Ai piani superiori lavorano quasi 200 persone. Tra loro ci sono tra l'altro 19 italiani, fisici dell'atmosfera, matematici e meteorologi. Chiudiamo con un test, il test che il propone ai suoi lettori questo mese. In ultima pagina, in luogo della abituale rubrica Ultima Parola, che è affidata al responsabile di il, Walter Mariotti, c'è invece un questionario, perché si chiede ai lettori di il, chi l'ha letto in queste 12 uscite, in questi 12 mesi, di raccontare un po' cosa ne pensano. Sono 19 domande, in realtà 18 domande e una richiesta di suggerimenti. Non sono tutte necessariamente mirate sul rapporto tra i lettori e il magazine, ma si chiede anche, tra l'altro, qual è la vacanza ideale o come si spenderebbe una vincita al lotto, questioni di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. E poi ancora, qual è il blog più frequentato, qual è il periodico che abitualmente si legge. Tra le righe di questi 12 numeri, questo mese parlate voi, il titolo che è stato assegnato dalla redazione di Il a questo test, appunto, richiesto ai lettori per capire che cosa voi pensate del prodotto che viene fatto, che viene proposto ogni mese con Il Sole 24 Ore in edicola. E allora parliamo invece di una questione molto di attualità, che è l'influenza. C'è in giro un po' di psicosi, un po' di preoccupazione, diciamo, per il diffondersi di questa influenza. Qua e là nei settimanali hanno cominciato a spuntare delle istruzioni per affrontare questa nuova emergenza o comunque questa nuova malattia che si sta diffondendo, l'influenza A. Panorama, vi segnalo, questa settimana propone un inserto in 16 pagine in cui si spiega influenza A, come non aver paura, si danno una serie di consigli per guardarsi appunto dai possibili rischi di contagio. E invece Donna Moderna si fa una domanda preliminare, cioè si chiede qual è il tasso di paura che le lettrici provano nei confronti dell'influenza. È stato fatto un sondaggio, ti fa paura l'influenza? Le lettrici di Donna Moderna che hanno partecipato a questo sondaggio hanno risposto: nel 20% dei casi sì, cioè ci fa molta paura, nel 39% come le altre influenze, per il 14% non ci fa paura per niente e per il 27% no, ma con una spiegazione che in qualche modo chiama in causa ancora i giornali. Non ho capito se questa influenza è davvero pericolosa. Questo è il risultato di un sondaggio a cui hanno risposto circa 200 lettrici di Donna Moderna e da cui sembra di capire che proprio sui giornali, sui settimanali e sui mezzi di comunicazione ci sia da fare ancora qualche sforzo di trasmissione delle informazioni essenziali a proposito dell'influenza. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato di influenza, abbiamo parlato di crisi finanziaria. Ripetiamo, è un anno. Tra lunedì e martedì sarà un anno dai crack più importanti che hanno più segnato l'avvio della crisi finanziaria e poi economica. Ma sui settimanali in edicola in questi giorni si trovano anche altri spunti molto interessanti. Ad esempio, il venerdì di Repubblica ha una copertina dedicata alla raccolta differenziata. La copertina dice: fa la cosa giusta e ammonisce. Sembra facile, ma riciclare correttamente i rifiuti che vi mostriamo potrebbe riservare qualche sorpresa. Si vedono una lampadina, un cartone della pizza, un piatto di plastica, un pacchetto di sigarette. E non solo, vacanze che hai fatto, raccolta differenziata che hai trovato, perché ogni comune fa da sé e i cittadini si confrontano con mille regole diverse, rischiando di gettare nel bidone anche la buona volontà. In realtà la raccolta differenziata, come nota giustamente questa copertina del venerdì, che ieri è stato diffuso con Repubblica, è in qualche caso un problema. Dà origine a non pochi dubbi perché si ha il timore di sciupare con il conferimento di qualcosa di non corretto lo sforzo che è stato fatto da tutti gli altri, anche da noi stessi, nei giorni precedenti. C'è una storia molto carina raccontata proprio sul venerdì da Emilio Marrese, un giornalista, che però ha notato un'altra particolarità, cioè quella appunto di chi si reca in un posto di villeggiatura, non conosce le regole di smaltimento differenziato o meno che esistono in quella località di villeggiatura e quindi si trova in qualche modo in difficoltà, difficoltà che Marrese racconta con molto garbo, molta gradevolezza. Vi leggo qualche passaggio, dice: se avessi girato per il paese con un Kalashnikov, anziché con il sacco della monnezza, sarei passato più inosservato. Il primo giorno di ferie, quando innocentemente ho depositato i miei rifiuti in un bidone che avevo visto sul marciapiede, sono stato circondato da un gruppo di delatori indigeni, sbucati fuori all'improvviso come inox, da ogni dove. Non si può, se la riprenda, questo è un bidone privato. Per evitare il linciaggio abbiamo patteggiato l'acquisto di 10 supplì alla rosticceria proprietaria dell'ambito bidone, che dal giorno dopo però è stato mimetizzato sul retro. Marrese racconta così appunto la difficoltà di comprendere le regole di raccolta differenziata di smaltimento dei rifiuti che possiamo aver incontrato un po' tutti nelle località di villeggiatura. Dice: la raccolta differenziata per il turista che viene da una città dove purtroppo è poco più di un'ipotesi, può trasformarsi in un incubo capace di trasformare decine di padri di famiglia in temerari, quanto ridicoli, spacciatori notturni di immondizia. Appena calavano le tenebre, iniziava il gioco dello scaricabidone. Dalle villette in affitto sgattaiolavano auto cariche di avanzi di barbecue, animando un grottesco carosello a fari spenti alla caccia di una pattumiera, prima con andatura distratta da passeggio e poi via sgommando come rapinatori appena smollato il bottino da qualche parte, ma rischiando multe fino a 2.000 euro. E commenta Marrese: uno differenziato licenzierebbe anche coscienziosamente, per carità, ma se poi passano a raccogliere la spazzatura solo una volta alla settimana, come si fa? E questo però accade in molte località di villeggiatura, dove il servizio magari è tarato sulla popolazione residente, ma poi mancano le risorse per adeguarlo all'aumento di presenze durante la stagione estiva. Questo appunto riferisce Marese. L'articolo prosegue poi raccontando appunto come sia riuscito Marrese e siano riusciti coloro che erano in vacanza con lui a risolvere questo problema di uno smaltimento corretto o comunque di uno smaltimento tout court dei rifiuti. Ma la questione è tutt'altro che banale. Nelle pagine appunto del venerdì si danno anche dei consigli sulla possibilità di smaltire o non smaltire con alcuni materiali cose di uso molto comune. Ad esempio il pacchetto di sigarette, se uno volesse essere proprio preciso e se non ha ancora deciso di smettere di fumare, si deve gettare, ma dividendolo in quattro parti, perché ci sono delle parti di plastica, delle parti in carta, delle parti in alluminio e poi il mozzicone vero e proprio, che invece va nella raccolta indifferenziata. E allora una delle ossessioni moderne, quella appunto della raccolta differenziata, una cosa utilissima, una cosa giustissima, che a volte ci mette in difficoltà. C'è un'altra delle ossessioni moderne che mi ha molto incuriosito e divertito sul magazine del Corriere della Sera, giovedì allegato al Corriere, è la rubrica Elzeviro di Marco Pratellesi, che è significativamente intitolata La fregatura del tempo digitale. In sostanza Pratellesi spiega come ci saremmo aspettati dall'aumento di tecnologia disponibile per tutti noi un aumento del tempo libero. In realtà questo non è esattamente avvenuto. Vi leggo che cosa spiega Pratellesi. Il tempo digitale, dice, è una fregatura. Ci eravamo illusi che grazie alla rete avremmo potuto fare molte più cose in minor tempo e quindi avere molto più tempo libero a nostra disposizione. Purtroppo non funziona così. È vero, l'economia digitale ci aiuta a risolvere brillantemente una serie di mansioni che un tempo richiedevano spostamenti e quindi il nostro tempo. Prendiamo i viaggi: 10 anni fa per prendere un treno dovevamo recarci in stazione o presso un'agenzia acquistare il biglietto, e stessa cosa per l'aereo. Oggi, grazie ai ticketless, tutto si risolve con il web o con un cellulare. Però, secondo i risultati di una ricerca che si chiama Visual Networking Index, realizzata da Cisco, la giornata digitale, calcolata sommando tutte le operazioni compiute simultaneamente online, cioè in rete, oggi arriva a durare 36 ore. E tra 4 anni, e non so se questa che vi sto per leggere è una buona notizia, sarà lunga esattamente il doppio di quella analogica, cioè in 24 ore faremmo cose che avremmo dovuto fare in 48. Ascoltare la musica, lavorare al PC, scaricare un video da YouTube, sono tutte cose che grazie alla rete riusciamo a fare simultaneamente. Quindi parliamo al cellulare, facciamo altre attività e in una giornata facciamo quindi alla fine il doppio, scrive Pratellesi, delle cose che riuscivamo a fare 10 anni fa. Ma alla fine, e qui sta la fregatura di cui si parla nel titolo, abbiamo sempre la sensazione di avere concluso la metà di quello che ci eravamo proposti di fare. Non so dove, conclude Pratellesi, ma da qualche parte deve esserci una fregatura. Allora difendiamoci un pochino da questo affannarsi, da questo affastellarsi di cose che la tecnologia ci consente di fare o in qualche modo forse ci costringe a fare contemporaneamente, simultaneamente. Ad esempio c'è chi, e l'ho ricavato proprio dal magazine, dallo stesso numero del magazine del Corriere della Sera, si è divertito in una attività assolutamente oziosa nel senso buono del termine, fare poesia con i dorsi dei libri. Non so se ci avete mai fatto caso, ma mettendo accanto i vari titoli dei libri è possibile anche ottenere qualche volta, in qualche caso, delle frasi di senso compiuto che appunto legano i vari titoli, che non hanno ovviamente niente da spartire l'uno con l'altro. E Lavinia Farnese a raccontarci questa storia: far poesia con i libri, basta mettere i dorsi in pila. L'idea è venuta a una giornalista e a un art director milanesi, folgorati sulla via della lettura in ordine sparso dei titoli di romanzi, e hanno creato un genere che è subito diventato un business. La storia di versi composti con i dorsi dei libri comincia una sera del maggio del 2007. Silvano Belloni, questo è il nome appunto dell'iniziatore di questo passatempo, è seduto sul divano a casa di amici e due parole sul più del meno, si gira verso la libreria, guarda gli scaffali e nota che leggendo i titoli insieme si possono costruire delle frasi di senso compiuto. E allora in questo articolo di Lavinia Farnese vengono anche riportate alcune delle piccole poesie. Ovviamente è un po' difficile comporre poemi di notevole lunghezza in questo modo, ma alla fine si è riusciti a mettere insieme abbastanza materiale da poter proporre nei prossimi giorni, verso la fine di settembre, a Verona queste poesie scritte con i dorsi dei libri al Festival Internazionale dei Giochi di Strada. E poi ci saranno altre uscite pubbliche di queste poesie fatte con i dorsi dei libri. Ve ne leggo una, Il bacio, dice Il bacio, ed è un titolo, uno come tanti, autentico assassino d'amore e di poesia. Sono titoli ovviamente messi insieme, ripeto, non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma in qualche modo danno una frase di senso compiuto, un divertimento che forse in qualche modo ci aiuta a ritrovare anche il piacere di perdere del tempo, visto che ci costringono a usarlo in modo così proficuo. L'ultima segnalazione la trago dall'Espresso, l'Espresso di questa settimana. Ha una interessante inchiesta che in realtà è stata preparata da Altro Consumo, che l'Espresso anticipa, sulla bontà dell'acqua che sgorga dai nostri rubinetti per quanto riguarda appunto il suo essere potabile. Sostanzialmente l'acqua che sgorga dai rubinetti italiani è di buona, anzi ottima qualità. Solo tre città non hanno superato l'esame imposto dalla rivista Altro Consumo. Le tre città che non l'hanno superato sono Reggio Calabria e poi Lecce e Ferrara, che non hanno brillato, dice. Ma le altre città su cui è stata condotta l'indagine, da Aosta a Palermo, quindi le rimanenti 32 città, sono state tutte promosse. Non solo, ma ci sono anche delle ottime performance, si segnala nell'articolo di Marco Lignana sull'Espresso, che in qualche modo fanno sì che l'acqua che sgorga dagli acquedotti cittadini, dalle fontane, sia da considerare di ottima qualità e di ottima potabilità. Questa era l'ultima segnalazione. Io ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma e Fabio Cantadori che questa mattina mi ha aiutato alla regia. Grazie e a settimana prossima.